Magnus, che durante le parole di Stenio si era più volte confuso e aveva alzato gli occhi al cielo con un'espressione di paura e angoscia, assunse ora un atteggiamento più calmo e sicuro. Giovanotto, disse, non finiremo con questo gracile guscio, né la nostra anima sarà data in pasto ai vermi della tomba. Pensate che Dio tenga conto di noi in egual misura? Non ci sarà forse maggiore misericordia nel giorno del giudizio per colui che ha mortificato la sua carne e ha pregato in lacrime, e maggiore giustizia per colui che si è inginocchiato agli idoli e ha bevuto dalle sorgenti velenose del peccato? Cosa ne sa lei, padre? Tutto ciò che è contrario alle leggi della natura è forse abominevole davanti al Signore. Alcuni hanno osato dirlo in questo secolo di esame filosofico e io sono uno di loro, ma vi risparmierò questi luoghi comuni contro i quali state in guardia, contando sul fatto che avrei il cattivo gusto di usarli. Mi limiterò a farle una domanda. È questa. Se domani all'alba, dopo esservi addormentati tra le lacrime e la preghiera, vi svegliaste tra le braccia di una donna, portata al vostro capezzale dalla malizia degli spiriti delle tenebre, dopo la sorpresa, la paura, la lotta, la vittoria, l'esorcismo, tutto ciò che sperimentereste e fareste, non ne dubito, ditemi, andreste a celebrare la messa un attimo dopo? E tocchereste il corpo di Cristo senza il minimo terrore? Con la grazia di Dio, rispose Magnus, forse le mie mani sarebbero rimaste abbastanza pure da toccare l'ostia sacra. Tuttavia non oserei farlo senza prima purificarmi con la penitenza. Molto bene, padre. Vedete che siete meno purificato di me, perché ora potrei dormire una notte intera accanto alla donna più bella del mondo senza provare altro che disgusto e avversione per lei. In realtà, potete aver passato il vostro tempo a digiunare e a pregare, non avete fatto nulla perché la carne può ancora spaventare lo spirito e l'uomo più vecchio può ancora turbare la coscienza dell'uomo nuovo. Sei riuscito a scavare il tuo stomaco, a irritare il tuo cervello, a disturbare la combinazione armoniosa dei tuoi organi, ma non hai ridotto il tuo corpo a un ruolo passivo come ho fatto io. Non sei arrivato al punto di sottoporti alla prova di cui parlo e di andare subito alla comunione senza confessarti. Hai realizzato solo un lento suicidio fisico, cioè un'azione che la tua religione condanna come un crimine terribile. E sei sotto l'influenza di desideri malvagi, come nei primi giorni della tua penitenza. Dio non ti ha aiutato, padre. Il monaco si alzò in piedi e, raddrizzandosi in tutta la sua alta statura, guardò ancora una volta il cielo. Poi, mettendosi entrambe le mani sulla fronte, in preda a una terribile ansia, gridò: «È vero, oh Dio! Mi avresti rifiutato l'aiuto e il perdono! Mi avresti abbandonato allo spirito del male! Ti saresti allontanato da me, non volendo ascoltare i miei singhiozzi, le mie grida imploranti! Avrei sofferto invano! E tutta questa vita di lotta e di torture sarebbe andata perduta? No, no!» esclamò entusiasta sollevando le lunghe e sottili braccia dalle maniche. «Non gli crederò, non mi lascerò scoraggiare dalle parole empie di questo figlio del secolo. Io andrò fino in fondo. Compirò il mio sacrificio e se la Chiesa ha mentito, se i profeti sono stati ispirati dallo spirito delle tenebre, se la parola divina è stata distolta dal suo vero significato, se il mio zelo è andato oltre le vostre richieste, almeno mi riterrei responsabile del desiderio ostinato, della volontà feroce che mi ha separato dalla terra per farmi conquistare il cielo. Tu leggerai nel profondo del mio cuore quella passione ardente che mi ha divorato per te, mio Dio, e che parla così forte in un'anima divorata da altre terribili passioni. Mi perdonerai per aver mancato di luce e di saggezza. Peserai solo i miei sacrifici e le mie intenzioni, e se avrò portato questa croce fino alla morte, mi darai la mia parte nel dolce del tuo riposo eterno. Il riposo è nel sistema dell'universo? Speri di essere abbastanza grande da meritare che Dio crei un nuovo universo solo per te? Credi che in cielo ci siano angeli inattivi e virtù inerti? Sai che tutti i poteri sono attivi e che non sei Dio e non arriverai mai all'esistenza immutabile e infinita. Sì, Dio ti benedirà, Magnus, e i santi canteranno le tue lodi lassù su arpe d'oro, ma quando avrai portato vergine e intatta ai piedi del padrone l'anima elitaria che egli ti ha affidato qui sulla terra, quando gli dirai: Signore, tu mi hai dato la forza, io l'ho conservata, eccola, te la restituisco, dammi in premio la pace eterna. Dio risponderà a quest'anima prostrata: Ebbene, figlia mia, entra nella mia gloria e prendi posto nella mia falange splendente. D'ora in poi compirai opere nobili, guiderai il carro della luna nelle pianure dell'etere, farai rotolare i fulmini nelle nuvole, incatenerai il corso dei fiumi, cavalcherai la tempesta, la farai saltare sotto di te come un cavallo che nitrisce, comanderai le stelle. Sarai una sostanza divina negli elementi, avrai commercio con le anime degli uomini, svolgerai missioni sublimi tra me e i tuoi antichi fratelli, riempirai la terra e i cieli, vedrai il mio volto e converserai con me. È bellissimo, Magnus, e la poesia trova la sua ragione in queste aberrazioni sublimi. Ma se fosse così, non lo vorrei. Non sono abbastanza grande per essere ambizioso, non sono abbastanza forte per volere un ruolo né qui né lassù. Fa comodo al tuo gigantesco orgoglio desiderare le glorie di un'altra vita. Io non vorrei nemmeno un trono innalzato su tutte le nazioni della terra. Se dubitassi della bontà divina al punto di sperare in qualcosa di diverso dal nulla per il quale sono stato creato, gli chiederei di essere l'erba del campo, che il piede calpesta e che non arrossisce, il marmo che lo scalpello modella e che non sanguina, l'albero che il vento stanca e che non lo sente. Gli chiederei la più inerte, la più oscura, la più facile delle esistenze, e lo troverei troppo esigente se mi condannassi a rivivere nella sostanza gelatinosa di un mollusco. Per questo non lavoro, per meritarmi il paradiso, non lo voglio. Temo le sue gioie, i concerti, le estasi, i trionfi. Ho paura di tutto ciò che posso concepire. Come potrei desiderare altro se non di farla finita con tutto? Ebbene, io sono più facile di te, padre. Vado senza preoccupazioni né paure verso la notte eterna, mentre tu ti avvicini, sconvolto e tremante, al tribunale supremo dove si rinnoverà per l'eternità il contratto delle tue sofferenze, delle tue fatiche. Non sono geloso. Ammiro il tuo destino, ma preferisco il mio. Magnus, spaventato dalle cose che stava sentendo e non sentendosi abbastanza forte per rispondere, si chinò verso Trenmore. E con entrambe le mani che stringevano la mano del saggio, i suoi occhi pieni di ansia sembravano implorarlo di dargli forza. Non essere turbato, fratello mio, disse Trenmore, e non lasciare che le sofferenze di quest'anima ferita alterino la tua fiducia. Non stancarti di lavorare e lascia che la tentazione del nulla sia smorzata con una carezza bugiarda. Sarebbe più difficile per te diventare miscredente che conservare il tesoro della fede. Non ascoltarlo, perché mente a stesso e teme le cose che afferma lungi dal desiderarle. E tu, Stenio, stai vanamente lavorando per spegnere la sacra fiaccola dell'intelligenza che è in te. La sua fiamma si riaccende più luminosa e più bella ad ogni tuo sforzo di soffocarla. Aspiri al cielo, tuo malgrado. E la tua anima di poeta non riesce a scacciare il ricordo doloroso della sua patria. Quando Dio, richiamandola dall'esilio, l'avrà purificata dalle sue impurità e guarita dai suoi mali, si prostrerà con amore e lo ringrazierà per aver fatto risplendere per lei la sua luce eterna. Si guarderà indietro e vedrà il sogno oscuro e spaventoso della vita umana svanire come una nuvola e si meraviglierà di aver attraversato queste tenebre senza pensare a Dio, senza aspettarsi di svegliarsi. Dove sei stato, Dio, dirà, e cosa ne è stato di me in questo rapido turbine che mi ha trasportato per un momento? Ma Dio la consolerà e forse la sottoporrà ad altre prove perché lei le chiederà di nuovo. Felice e orgogliosa di aver recuperato la sua volontà, vorrà farne uso, sentirà che l'attività è l'elemento dei forti, si stupirà di aver abdicato alla sua corona di stelle, chiederà il suo ruolo tra le dominazioni celesti e lo riprenderà con splendore, perché Dio è buono e forse manda le dure prove della disperazione solo ai suoi eletti, per rendere loro più prezioso l'uso del potere in seguito. Vai. La facoltà divina dell'anima, il desiderio, è solo addormentata in te, Stenio. Lascia che il tuo corpo riprenda vigore. Dai al tuo sangue qualche giorno di riposo e sentirai quel santo ardore del cuore, quell'aspirazione infinita dell'intelligenza che fa di un uomo e che è degno di comandare le cose di quaggiù e gli elementi di lassù. Un uomo è un uomo, disse Stenio, finché può dominare il suo cavallo e resistere alla sua padrona. Quale migliore uso della forza vedi che il cielo ha dato a creature così gracili come noi? Se l'uomo è capace di una certa grandezza morale, questa consiste nel non credere a nulla, nel non temere nulla. Chi si inginocchia tutte le ore davanti all'ira di un Dio vendicatore, non è che uno schiavo servile che teme i castighi di un'altra vita. Chi si fa idolo di non so quale chimera della volontà, davanti alla quale tutti i suoi appetiti si spengono, tutti i suoi capricci si infrangono, è solo un vigliacco che teme di essere trascinato via dalle sue fantasie e di trovare sofferenza nei suoi piaceri. L'uomo forte non teme né Dio, né gli uomini, né se stesso. Accetta tutte le conseguenze delle sue inclinazioni, buone o cattive che siano, il disprezzo del volgo, la diffidenza degli sciocchi, il rimprovero dei rigoristi, la fatica e la miseria non hanno più influenza sulla sua anima della febbre e dei debiti. Il vino lo esalta e non lo intossica, le donne lo divertono e non lo governano, la gloria lo solletica talvolta al tallone, ma egli la tratta come le altre prostitute e la getta via dopo averla abbracciata e posseduta, poiché disprezza tutto ciò che gli altri temono o venerano. Può passare attraverso la fiamma senza lasciarvi le ali come una falena cieca e senza cadere in cenere davanti alla fiaccola della ragione. Effimero e gracile come lui, si lascia trasportare da tutte le brezze, sedurre da tutti i fiori, deliziare da tutte le luci, ma l'incredulità lo preserva da tutto. Il vento dell'incostanza lo porta con sé e lo salva, oggi dalle vane meteore, dalle bugiarde illusioni della notte, domani dal sole luminoso. Triste informatore di tutte le miserie, di tutte le brutture umane. L'uomo forte non si prende alcuna sicurezza per il suo futuro e non si sottrae a nessuno dei pericoli del presente. Sa che tutte le sue speranze sono registrate in un libro, le cui pagine il vento si preoccupa di girare, che tutti i progetti di saggezza sono scritti sulla sabbia, che c'è una sola virtù al mondo, una sola saggezza, una sola forza, ed è quella di aspettare il diluvio. E di rimanere fermi mentre ti sommerge, di nuotare quando ti trascina, di incrociare le braccia e di morire con leggerezza quando ti sommerge. L'uomo forte, secondo me, è quindi anche l'uomo saggio perché semplifica il sistema delle sue gioie, le stringe, le spoglia degli errori, delle vanità e dei pregiudizi che le circondano. Il suo godimento è tutto positivo. Tutto reale, tutto personale, e la sua divinità ingenua e bella, cinica e casta. Lo mette a nudo e calpesta i vani ornamenti che lo nascondono, ma più fedele e più sincero degli ipocriti, dottori del suo tempio, in tutte le ore della sua vita piega il ginocchio davanti ad esso, in barba ai vani anatemi di un mondo stupido. È un martire per la sua fede, vive e soffre per lei, muore per essa, e attraverso di essa, negando o sfidando quell'altro Dio assurdo e malvagio che voi adorate, l'uomo che estrae la spada per combattere la tempesta è empio e avventato, ma è più coraggioso e più grande del Dio che scatena il fulmine. Io oserei, mentre tu, Magnus, non lo faresti. Trenmor che ci ascolta, Trenmor che è, non fraintenda, padre, più filosofo che cristiano, più stoico che religioso e che stima la forza più della fede, la perseveranza più del pentimento, tren mor, in una parola, che può e deve stimarsi più di lei, più di te, padre, può essere il giudice tra noi e vedere chi di noi ha meglio difeso e conservato la più alta delle sue facoltà, l'energia. No, non sarò io a giudicare tra voi, disse Trenmore. Il cielo vi ha dato qualità diverse, ma ognuno di voi ha ricevuto una buona parte. Magnus era dotato di una maggiore perseveranza di pensiero, e se metterai da parte i tuoi stenti e contemplerai seriamente il bellissimo spettacolo di una volontà vittoriosa, sarai colpito dall'ammirazione alla vista di questo monaco che era empio, innamorato e pazzo, e che ora è qui calmo, fervente e sottomesso alla regolarità delle abitudini monastiche. Dove ha trovato la forza di resistere a queste terribili lotte per così tanto tempo e di risorgere dopo essere stato maledetto e spezzato? È lo stesso uomo che hai sentito negare Dio al capezzale di Lelia Morente? È lo stesso uomo che hai visto smarrirsi sulla montagna? È un uomo nuovo. Eppure la stessa anima tempestosa e ardente, gli stessi sensi ardenti e terribili, sempre nuovi e sempre vergini, lo stesso desiderio, sempre intenso ma mai appagato, che vaga, suo malgrado, alla ricerca di cose umane, ma che ritorna sempre a Dio, per reazione di un vigore inconcepibile, di un fuoco di speranza sublime. Oh Padre mio, anche se è vero che non adoriamo la stessa cosa e che invochiamo Dio con riti diversi, tu sei comunque tre volte santo ai miei occhi, tre volte grande, perché hai combattuto, ti sei sollevato da sotto i piedi del tuo nemico e stai ancora combattendo, valoroso, instancabile, pieno di ferite, sfinito dal sudore e dal sangue, ma determinato a morire con le armi in pugno. Continua nel nome di Gesù, nel nome di Socrate. I martiri di tutte le religioni, gli eroi di tutti i tempi ti guardano. E dal cielo applaudono i tuoi sforzi. Ma tu, Stenio, bambino nato con una stella sulla fronte, tu, la cui bellezza faceva concepire le sembianze degli angeli, tu, la cui voce era più melodiosa delle voci della notte che sospirano sulle arpe scozzesi, tu, il cui genio prometteva al mondo una nuova giovinezza, tutta d'amore e di poesia. Perché i cantanti e i poeti sono profeti inviati agli uomini per ravvivare i loro spiriti innervositi, per rinfrescare le loro fronti ardenti. Tu, Stenio, che in gioventù hai camminato in grazia e purezza, come in una veste immacolata e in un'aureola luminosa, non posso temere il tuo destino, non posso disperare del tuo futuro. Come Magnus, stai subendo la grande prova, la terribile agonia riservata ai potenti. Ma anche in questa vita risorgerai come lui, stai ancora lottando e sanguinante per la tortura non conosci la mano che ti asciuga. Ma presto ti vedremo, stella oscurata, brillare più bianca e più bella nella volta celeste. E cosa ci vuole per farlo, Trenmore? Dovrai solo riposare, rispose Trenmore, perché la natura è gentile con chi è come te. Devi dare ai tuoi nervi il tempo di calmarsi. E al tuo cervello il tempo di ricevere nuove impressioni. Spegnere i tuoi desideri attraverso la fatica può essere una buona cosa, ma eccitare i desideri spenti, avvelenarli come cavalli stanchi, imporre a se stessi la sofferenza invece di accettarla, cercare al di là delle proprie forze gioie più intense, piaceri più nitidi di quanto la realtà permetta, suscitare in un'ora le sensazioni di una vita intera. Questo è il modo perdere il passato e il futuro, l'uno dal disprezzo dei suoi timidi piaceri, l'altro dall'impossibilità di superare il presente. Oggi non sei pronto a ricevere altri consigli, ma in ogni momento mi lusingo, figlio mio, che tu sia pronto a darmi una prova di affetto. Sempre, disse Stenio, stringendogli la mano. Ebbene, disse Trenmore. Promettimi, giurami che rimarrai qui fino al mio ritorno. Se non sarò tornato entro 30 giorni, sarai sciolto dal tuo giuramento. Si alzarono e tornarono al convento. Il giorno successivo Trenmore partì, dopo aver ottenuto, non senza difficoltà, la parola di Stenio. 5. Don Giovanni. Una sera Stenio prese il braccio di Magnus e lo condusse al lago. Amava questo luogo incolto, questi alti cedri che si affacciavano sul precipizio, queste sabbie argentate dalla luna e quest'acqua immobile dove le stelle si riflettevano con calma come in un altro etere. Amava il sibilo tenore e malinconico dei serpenti, il lieve fruscio dell'acqua nei giunchi e il volo silenzioso dei pipistrelli amici delle tombe. Tra i sepolcri, sull'orlo del burrone, in fondo al lago senza sponde, la sua anima cercava un pensiero di speranza, un sorriso di destino, poiché la sua fronte era calma e la sua bocca muta per lungo tempo. Magnus credette che Dio avesse avuto pietà di lui e avesse aperto a questo cuore sofferente il tesoro delle speranze divine. Ma improvvisamente Stenio, rompendo il silenzio e fermandolo sotto la candida luce della luna, gli disse, penetrandolo con il suo sguardo cinico: «Monaco, parlami del tuo amore per Lelia e di come, dopo averla resa atea e rinnegata, l'hai fatta impazzire!» «Mio Dio!» gridò sconcertato il pallido camaldolese. «Lascia che questo calice sia solo mio!» «Ti lascerò in pace, Magnus», disse Stenio, «se finalmente mi dirai la verità. Sì! Se risponderai alla mia domanda senza falsa vergogna o ipocrisia, giuro che la mia ironia non disturberà più i tuoi pensieri.» «Parla allora, fanciullo crudele», rispose il monaco, «e se posso farlo senza peccato ti risponderò con franchezza.» «L'onestà non può mai essere un peccato», disse Stenio. «Sono l'orgoglio e la finzione che sono crimini davanti a Dio. Dimmi se le tue macerazioni, il tuo ritiro, le tue preghiere, la tua volontà, dimmi se tutti i tuoi sforzi hanno davvero vinto e respinto il nemico del tuo riposo. Se mi giuri nel nome di Cristo che è così, ci crederò.» «La tua domanda è molto difficile, figlio mio. Quale soddisfazione può aspettarsi la tua vanità dalla mia risposta?» «La mia vanità è crollata come una pagliuzza, Magnus. Non è la vanità a suggerirmi questa curiosità ardente, è che ho bisogno finalmente di una certezza, di una speranza almeno. Se la tua fede ti ha salvato, se nei giorni del dubbio e dell'angoscia hai ottenuto attraverso le lacrime e la preghiera quella fiducia con cui sei nobilitato e santificato, devo inchinarmi e pregare. Allora forse Dio salverà anche me.» «Prega, figlio mio, spera», rispose il monaco. «Il regno dei cieli...» «Oh, taci!» interruppe violentemente Stenio. «Questo abito ti dà la stessa lingua come ti dà la stessa camminata. Vuoi davvero essermi utile? Giura!» «Giuro di risponderti», disse il monaco tremante. «Per Cristo?» disse Stenio. «Attraverso Cristo», disse Magnus, «poiché si tratta della tua salvezza. Ebbene, dimmi, è stata la grazia a salvarti o la tua forza? La fede ti ha rivestito di un'armatura di diamanti o la tua prudenza ti ha trincerato dietro queste mura protettive? È perché sei saggio e ti senti debole che sei venuto qui per sfuggire allo sguardo ardente della donna? O forse perché, terminata la battaglia, spezzato l'orgoglio di Satana, sei venuto a riposare e a dormire in pace sotto le volte di questo chiostro, come sotto il peristilio del cielo, in attesa che la morte apra le porte della gloria eterna?» «Sono un uomo debole», rispose Magnus. «Non ho vinto il demonio. Senza la grazia non avrei avuto nemmeno la forza di fuggire dal pericolo. Senza la grazia mi sento ancora così infelice che probabilmente affronterei ancora il pericolo in cui sono quasi crollato.» «Quindi, come ti ho detto, non sei più avanti di quanto lo fossi il primo giorno della tua fuga.» «Ma non dire così, figlio mio. Non è niente avere un forte desiderio di resistere.» «Non è niente, padre», rispose duramente Stenio. «Che cos'è l'ambizione senza il potere? La cosa più spregevole del mondo. Che cos'è questo? Ti credi grande perché freni velocemente l'ardore del tuo sangue, perché erigi tra te e le seduzioni del mondo muri di marmo e di bronzo. E quando ti sei gettato vivo in questo sepolcro, quando hai chiuso su di te le porte che la tua mano non può più sollevare, ti rompi i denti in silenzio, mordi la terra, bestemmi dolcemente e ti credi santo perché un giorno di entusiasmo o di viltà ti ha fatto scendere nella prigione. se il tuo culto ti avesse purificato, se il tuo zelo ti avesse temprato, se il tuo coraggio fosse cresciuto, potresti tornare nel mondo, diffondere i benefici di cui sei ricco, curare gli uomini e consolarli dei loro mali, senza temere di essere contagiato e di disperare allo spettacolo della loro angoscia. Tu, monaco, potresti andare dalla donna il cui sguardo un tempo ti divorava e parlarle con calma celeste, che forse sta dimenticando. Vedi Dio che proibisce il suo orgoglio. Ma non è così. Sei un martire, non sei un santo. Avresti la forza di sentirti penetrare nelle vene olio bollente e piombo fuso senza rinnegare Cristo, ma non avresti la forza di passare una notte nella stanza di una donna senza farti trasportare da desideri malvagi. Oh, è perché la natura è più forte del tuo debole cervello. Perché la natura è Dio, perché la tua fede è solo un sogno dorato, una folle ambizione poetata dal genio di un settario entusiasta. Ma per l'uomo che ha pensato, che ha sentito, che ha vissuto, che è stato nel profondo di tutte le realtà della vita, non c'è salvezza, né consolazione, né speranza nei tuoi libri e nelle tue tradizioni. Oh figlio mio, non parlare così! Gridò il sacerdote con dolore. E tu, padre, disse Stenio, dammi una dichiarazione che mi convinca. Dimmi che Lelia potrebbe dormire nella tua cella senza che nel tuo cuore si commetta il peccato di adulterio. Rispondi e non dimenticare che hai giurato su Cristo.